Io sono Supersonico, frollino tecnologico. Io sono Tontolino, frollino contadino. Io sono quello magico, maldestro e catastrofico. Scusate, senza offese, io sono Gran Turchese. Gran Turchese ce n'è uno. Come lui non c'è nessuno. She's a small wonder, a child unlike other girls. She's a miracle, and I grant you, she'll enchant you at her sight. She's a small wonder, and she'll make your heart take flight. La la la la la la. Microchips here and there. She's a small wonder. Brings love and laughter everywhere. Sono rimasta sorda. Mi piace quest'ultimo parapapam. Bene, giovedì 5 marzo 2020. Piena emergenza coronavirus e la brusca. A caso questa sera va in onda alle 19.30 anziché alle 20. Perché sì, sì. Perché, perché così. Perché come dicevamo la volta scorsa, o andiamo in onda e facciamo delle puntate meravigliose, o non andiamo in onda, ma a volte ci piace stupirvi anche un po' così. Ora, questo puntate meravigliose lascialo dire ai nostri fan. Che ci possono scrivere su facebook.com/radio-wombat-firenze, ma ci piacerebbe di più ricevere una mail a posta@wombat-insideria.net. Ci dicono siete due psicopatiche. Grazie. Grazie. E sul nostro sito wombat.noblogs.org potrete rivedere, riascoltare i podcast, rivedere quelle fantastiche immagini che mettiamo. E la volta scorsa sì, ci sono cascata, alla fine ho messo quella Tamara. Quella. Sì, Toto Codogno. Esatto, sì, è così. Abbiamo anche twitter.com/radiowombatfi e boh, sono le 19.30, abbiamo cambiato orario. 34. Siamo in onda in diretta. Invece ci potrete riascoltare il sabato alle 18 e la domenica alle 15. Che dire, sì, questo sarà il nostro futuro orario. So che per voi cambia poco, ma bene, ve lo diciamo lo stesso e lo sottolineiamo. Tanto sappiamo che sarete in coda sul ponte all'Indiano, via Sestese, alle cure. Quindi noi vi terremo compagnia. Vi ricordiamo ovviamente che Radio Wombat ha anche una frequenza M. Pensa un po', 1359 3, 5, 9, tombola. Tombola. E questa sigla... Anzi, questo spot iniziale. Allora, facciamo un attimo un cappello introduttivo, per chi non ci avesse mai ascoltati. Come funziona l'Accademia della Brusca? Male. Male e a tratti, e dipende sempre. Cosa fa l'Accademia della Brusca? Schifo. Schifo. No, molto semplicemente ci occupiamo di linguistica, di glottologia, di dialettologia, insomma, in chiave, però in questa insalata russa un po' trash. E abbiamo sempre uno spot con cui apriamo la trasmissione che generalmente svela una parte della tematica, almeno una, che verrà trattata nella puntata. Poi abbiamo una sigla assolutamente messa a caso, in questo periodo ci va di riascoltare Super Vicky. E no, in Super Vicky non c'era Billy Corgan, questo ve lo possiamo confermare. Tanto sappiamo che ce l'avreste scritto via mail e poi dipende, alle volte intermezziamo le nostre chakre, che sono molto profonde anche a volte, con dei pezzi di musica trash. La volta scorsa abbiamo giocato due assi nella manica che trash non erano, perché abbiamo messo i Blue Vomit e i Madonna, e quest'oggi invece vi toccherà sentire delle cose, insomma... abbastanza deliziose. Brenda Lee. Davvero io. Sì. Nenia. Io sono Nina e lei è Nenia. E È lì. E iniziamo. Cioè, è proprio lei. È proprio lei. Allora, però, piena ondata di coronavirus, io avevo chiesto a un noto specialista medico di mandarci un intervento. Audio però si è rifiutato perché effettivamente... non l'ha fatto, quindi nulla, non possiamo dirvi niente di scientificamente corretto, e quindi facciamo un passo indietro. Parliamo prima di offese. Ecco. Nenia, vaffanculo. Non ci va. Vaffanculo. Chiedimi scusa, però. scusa, offese è tutto a posto. E scuse. Partiamo da... Guarda che io sono una persona molto rancorosa. Ranxerox, sì, lo so. Stai attenta. Io, la buona Sarda, sono molto rancorosa. Io sono ferrarese. È uno dei tanti miei difetti, ma il peggiore. Il rancore sardo, sì, che sì, cova sì, solo fino al continente. Ah. Io sono ferrarese, quindi... La covo in maniera molto lunga e la servo. Su un piatto col purè. Allora, cosa? Chi? Vabbè. Chi ha chiesto scusa questa settimana? Ci dobbiamo fidare di queste scuse? Ma che è successo? Ma che è successo la settimana? Com'è andata? Casino. Ebbene, signori, oltre alla Pascale e Berlusconi che si sono lasciati, guarda caso, fine di un amore intenso e veramente love story, al Grande Fratello VIP 4. Perché... Le nostre fonti sono altissime. Davvero. Qui al momento il è superguidatv.it. Allora, Grande Fratello VIP 4, Alfonso Signorini ha cazziato pesantemente la concorrente Asia Valente per la frase, giustamente, sei un mongolo, anzi sei down, rivolta a un altro coinquilino. Un altro deficiente. Tra l'altro, che cazzo è Asia Valente? Ma che ne so. E che cazzo è Sossio Aruta? Vabbè, sono nomi finti. Ma che ne so. Aieie. E nella puntata di lunedì pensavo di marzo, addirittura il Grande Fratello non lo facessero più. No, ma che, ma insomma, ci vieni al circolo con me, lo vedi? Sì, ma non pensavo fosse Grande Fratello, pensavo tipo la casa senza bagno come Boris. Con ovviamente Nando Martellone, Nando che Martellone dà il meglio di sé. Che quando esce finalmente può andare al bagno dorato. Brucia del culo, Dio, wow, mi ha esploso il microfono. Quindi, e nella puntata di lunedì scorso, questa ragazza ha usato questo apostrofare un suo coinquilino, diciamo, dandogli del down, del mongolo. Che doveva essere un'offesa. Doveva essere un'offesa, quindi equiparando tutte le persone con sindrome di Down a persone stupide. Certo. Politicamente scorretto, ma c'è anche qualcosa molto, di più. Molto. Perché la signorina si è poi ovviamente risentita, perché è stata sgridata da Alfonso Signorini. Ecco, ora voi pensate a cosa significa essere sgridati da Alfonso Signorini, magari anche sculacciati da Alfonso Signorini. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci sarà più per un mese. No, la puntata hard tra qualche settimana. No. Sì, però non mettiamola nella stessa frase di Signorini, per favore. E quindi ho dovuto chiedere scusa. Ed eccoci al nocciolo della questione. Offendere e scusarsi. Scusarsi è molto, molto difficile. E su Internazionale è uscito un paio d'anni fa un articolo di Anna Maria Testa, che è un'esperta di comunicazione e una copywriter come me, e ha fatto questo articolo in cui dice che chiedere scusa in realtà è importante ed è anche bello, è difficile, ma è una conquista. E si parla che però di... Non ha sempre esito. No, non crediamo mai a tutti i tipi di scusa. La nostra provenienza, no, di sicuro. No. Quindi non è vero che scusarci ci fa stare subito meglio, però l'obiettivo delle scuse è sicuramente quello di far sentire meglio chi ha subito un'offesa, non chi l'ha recata. Però, vabbè. Scusa e autostima. Il fatto di scusarsi ha conseguenze positive. Quindi vediamo un po' una sorta di prossemica, ed è la parola del giorno, di cui parleremo dopo, il fatto di scusarsi ha conseguenze positive, perché è intanto una parte integrante, come dice Anna Maria Testa, dell'addestramento alla vita sociale, migliora le relazioni interpersonali, riduce la rabbia, e la contiene, ma soprattutto accresce la coesione della comunità. E quindi, insomma, però... vuoi ascoltare un po' di musica? Sì, perché ci starebbe bene, secondo me. Io parto subito col rancore. No, mi sembra giusto. Scuse e rancore. Ah sì, questa qui è la scena, quella lì del corpo. La luce più fioca, la vista la sfoca, di certo non sfoga. Produce l'intoppo che poi sarà troppo poca. I limiti di dove abiti, chi li sa, tu e la tua crew. Tra gli pavidi capiti tu, siete abili a trovarvi un alibi che ti risu in questo gioco dell'oca dei poveri. In più per di più a stare in questa tribù, per di più fatta di miserabili. Stabile se le abitudini magiche penso tra gli aridi. Apriti tu prima che ti ricoveri, esprimiti, sfogati e bidi bibadi bibu. Altrimenti ci arrabbiamo, anzi siamo già arrabbiati. Altrimenti ci arrabbiamo, anzi siamo già arrabbiati. Altrimenti ci arrabbiamo, anzi siamo già arrabbiati. Altrimenti ci arrabbiamo, anzi siamo già arrabbiati. Anzi siamo già arrabbiati. Perché tu non stai con noi? No. Allora stai con noi? Sì. Io sento un sacco di ritornelli ripetitivi e cattivi ripetitivi e ribelli ripetitivi. Tu m'ammazzi ma io non strillo, io non mi arrendo al figlio di Dio. Non gli somiglio, capito? Perché se massi lì tu t'assillo io. Altrimenti ci arrabbiamo, anzi siamo già arrabbiati. Altrimenti ci arrabbiamo, anzi siamo già arrabbiati. Altrimenti ci arrabbiamo, anzi siamo già arrabbiati. Altrimenti ci arrabbiamo, anzi siamo già arrabbiati. Altrimenti ci arrabbiamo, anzi siamo già arrabbiati. Altrimenti ci arrabbiamo, anzi siamo già arrabbiati. Altrimenti ci arrabbiamo, anzi siamo già arrabbiati. Altrimenti ci arrabbiamo, anzi siamo già arrabbiati. Ciao Nenio, ci assenta due minuti dalla regia. Ci arrivano messaggi in cui dicono, in tanti dicono che dovrebbero chiedere scusa a tante persone. Ma fate un po' voi. E sì, insomma, diciamo sapersi scusare è importante. Dire solamente mi dispiace per quanto è successo ci dice là. Così ricominciamo a bomba. Scusarsi è molto difficile, ci dice sempre la Anna Maria Testa, però dire mi dispiace per quanto è successo significa non riconoscere il proprio ruolo per quanto è successo. Allora, siamo in un meccanismo retorico, no, di come dire, conferma e contrario alla conferma, quindi facciamo un passo indietro, no? E, ci sono anche quelle scuse in cui si cerca di dare un'enfasi particolare, no? Quindi mi provo un terribile, enorme dispiacere per quanto è successo, no? Quindi mettono al centro della relazione chi ha commesso il danno e i suoi sentimenti di rimorso, quindi come se il faro, no, venisse gettato proprio sul protagonista dell'offesa, cioè, quindi chi ha fatto l'offesa, vabbè. E ci sono poi le scuse incomplete, ci racconta Anna Maria Testa, quindi appunto il mi dispiace per quanto è successo significa non riconoscere la propria responsabilità per quanto è successo e quindi non assumersi alcun impegno per evitare che in futuro una situazione analoga si ripeta. E poi le scuse negate, sì, ma non è colpa mia, però sono sincere, è l'ego che parla e rifiuta di ammettere ogni colpa. Questo articolo per appunto confutare il poverino di Signorini per questa offesa che non è politicamente scorretta, ma un po' anche come lo spot che abbiamo sentito all'inizio della trasmissione in cui c'era il frullino che si chiamava tipo Contadinotto o qualcosa del genere ed era effettivamente tonto, quindi si entra in quell'insieme, no? In quell'ambiente semantico dove ha una particolare condizione corrisponde poi anche una serie di significati allargati che generalmente sono offensivi e che ovviamente non ricalcano una caratteristica reale. E quindi questo articolo lo trovate su internazionale.it, è del luglio 2017, quindi è un po' datato. E che dire, c'è un'altra cosa molto carina, vai, si può aggiungere, intanto che aspettiamo la nenia che è andata a prendersi il suo bicchiere di liquirizia, perché la brusca è la trasmissione comunque che, avendo una dose di trash abbastanza consistente, ha bisogno anche di una consistente dose di alcolici per riuscire ad andare avanti. Comunque, ci sono delle scuse, come dire, per torti inflitti in passato che vengono portate avanti, no? E questo genere di scuse può essere importante nella misura in cui chiedere scusa per torti inflitti in passato si rifletta sui comportamenti attuali, no? Ci sono degli psicologi australiani che si sono di recente, cioè 2017, scusati formalmente con le tribù aborigene per la pratica pluridecennale di separare le madri dai figli, che ha dato origine appunto al fenomeno delle stolen generations, quindi delle generazioni rubate, in cui in realtà poi i figli venivano manipolati e diciamo accompagnati in un percorso di vita tra virgolette civilizzata che li ha portati poi in realtà a separarsi completamente dalla cultura aborigena. E su questo, ciao Nenia, bentornata. Ciao, sono andata a spostare la macchina. Brava. C'era la pulizia delle strade e mi ero dimenticata. Ho detto ai nostri ascoltatori, ho detto tutta la verità, ho detto che cosa sei andata a fare e che cosa sto bevendo io. Ho fatto entrambe le cose. Hai fatto pipì. Ho fatto tutto. Brava. Hai anche il fiatone, senti. Certo, ho fatto di corsa. E, quindi abbiamo parlato di psicologi australiani, di scuse formali e quindi possiamo entrare nel vivo della questione della serata, ovvero diario virale numero 2. Ma un prima po' di attualità, ascoltare un po' di musica. Ma sì. Ah, guarda un po' la nostra amica. È bellissimo. Scusate, non è colpa mia. Biri biri. I'm sorry. So sorry. Che atmosfera, riesco sempre a ricreare un'atmosfera davvero romantica. Limonate, sì. Anche con il sedile della macchina, ovunque voi siate. Dopo metto il ballo del mattone. Quello non è romantico. Bel senso del ballo del mattone, sì. Ah già, la solita tardona. Apart. sorry, so sorry. Please accept my apology. But love is blind, and I was too blind to see. Senti un po' che capito. Romanticismo. Io in realtà ero, mi ero concentrata sul mio Bloody Mary. Lo so, però a volte i sentimenti vengono prima. È tutto più importante. Ma io lo amo. E allora hai un problema. Lo so. Ma questo lo sapevamo già. Tanto ma ce li abbiamo tutti questi problemi, non ti preoccupare. Tutti, certo. A inizio trasmissione ci hanno dato delle psicopatiche in diretta, quindi insomma. Bene. Allora, bada, veniamo come un po' parli ai nostri. Psicopatica. Questo è il rumore della sputacchiera davanti al microfono. Ora inquietante. Rompe tutto. Rompo tutto. Allora, tre. Cosa abbiamo fatto la volta scorsa? Abbiamo trovato un bellissimo racconto metropolitano di Wu Ming, in realtà pubblicato sul blog Jap, in cui si, i nostri amici del collettivo fanno questa cronistoria dell'evoluzione del coronavirus in quel di Bulagna. Tra l'altro vi farei notare, se andate sul sito, come hanno scritto praticamente con la trascrizione IPA Bulagna. Bellissimo. Diario virale 2. Bulagna brancola nel buio delle ordinanze. E qui, anche se ormai forse non si sente più, sfogherò la mia emilianità finalmente. La mia nonna era bolognese. In realtà stiamo leggendo questi racconti proprio per darti questa possibilità. Grazie amici. Allora, tra i modi di dire felsinei, quindi bolognesi, il nostro preferito era sempre stato Asbaddikanka Gerdi Violene. L'avevo mai sentita. Nel loro dizionario bolognese, Gigi Lepri e Daniele Vitali lo rendevano con succedono cose inaudite, letteralmente però si vedevano cani cagare violini. E in quei giorni di virus cagavano liuti, violoncelli, contrabbassi, pronti a suonare melodie stridule. Sono geniali. E quindi dopo la prima puntata del diario virale, che trovate ovviamente online, e Wu Ming ci dicono, avevamo ricevuto decine di racconti e testimonianze, aneddoti sullo sfascio che l'ordinanza di Buna Zain stava causando nel mondo del lavoro. Possiamo confermarlo, Nenia? Sì, è un gran casino. Facciamo un parallelo tra la linguistica, la dialettologia e quello che sta succedendo in realtà anche a è un gran casino, non ho altro da dire. Non si sa chi ti paga, chi non ti paga, chi va, chi non va. Vai a scuola ma non sei professore vero, quindi vai lo stesso anche se la scuola è chiusa e stai lì fuori vero. E aspetti che un custode ti apra e poi fai una partita a carte con io te l'ho detto, il torneo di primiera. Bisogna torneo di primiera. Inventarsi qualcosa. Porta le carte. Lui. Sì. E quindi, allora, ci raccontano che la settimana prima c'era stato lo sciopero degli edili con manifestazione a Milano. Il 25 un'impresa di costruzioni romagnola, visto che i suoi lavoratori avevano partecipato al corteo, li aveva avvertiti con un SMS che erano tutti in quarantena per 14 giorni e dovevano fare il tampone, altrimenti li metteva in cassa integrazione. Nelle aziende di alcune province, Confindustria voleva imporre ai dipendenti di riempire questionari invasivi per appurare se erano entrati in contatto con qualcuno che è stato in Cina, zone italiane attenzionate, e presentava sintomi come tosse e o febbre, o se avevano avuto rialzi di temperatura oltre i 37,2. In alcuni call center si misurava la febbre dipendente in entrata. Certo. Il padronato, insomma, coglieva l'occasione per aumentare il controllo aziendale sui lavoratori. La CGIL aveva dovuto precisare: non è obbligatorio compilare nessun questionario proposto dall'azienda o altri enti che non siano quelli preposti, come per esempio il Dipartimento di Igiene Pubblica dell'ASL. Non si dice più ASL? Dipende dalle regioni, dalle province. ASL, USL, AUSL. Ok. La seconda, sì. Non lo sapevo. Qui a Firenze è ASL. ASL, siamo vecchi. Non lo so. Sì, USL. Sì, no, ASL. È ASL, sì. Okay. E quindi alcune aziende usavano il coronavirus per imporre ferie forzate ai dipendenti in modo da fargliele smaltire tutte a febbraio. Che ricadrà comunque sull'economia, perché chi non ha le ferie d'estate dovrà rinunciare a quei viaggi che si è sempre... Tipo le nostre tre giorni in campeggio sulle Apuane. Esatto. Ah, se non penso ci stanno ascoltando, io volevo salutare... Radicchi, il nostro amatissimo Bar Radicchi di Vagli, in provincia di Lucca, in Lunigiana. Che è uno spot tanto nessuno, non andrà mai. Quindi va bene. Scusa un attimo, a proposito di spot, a me mancherebbe un sottofondo musicale mentre leggo queste cose. Mannaggia, guarda, ce ne vorrebbe proprio uno. Beh, dipende tutto da che tipo di spot vuoi, perché io posso spaziare dalla classica alla disco dance. La disco dance. Vuoi la disco dance? La disco dance. Sei sicura? Beh, allora vorrei bisognerà la ricadere. Disco dance. Vediamo un po' la scelta. Beh, tanto si sa. Mi è cotta impreparata, perché non è questo quello che doveva andare. No. E insomma, tra l'altro, questa, vabbè, ora siamo concentrati un attimo sull'articolo di Wuming, ma non c'è nell'immediato, quindi dobbiamo fare quello che dicevo io. No, sì. Ok, quindi cosa stai mettendo su? Aiuto. Voi non potete vedere, purtroppo, ma stanno succedendo delle cose bellissime. Senti che clavicembalo spompato. Che bella rietta che ti ho proposto. E questo faceva anche con la testa, ondeggiava da destra a sinistra, sinistra a destra. Eh sì, perché fare questo arpeggio. Chissà cosa ne direbbero i nostri amici della barcaccia. Non lo so, i nostri amici della barcaccia oppure le nostre amiche della fuga del gatto, che va in onda tutte le domeniche su Radio Wombat. Veramente bellissimo. Ma insomma, andando avanti un po' con la lettura, lo sapete che cosa ha fatto Vodafone? Vodafone ha indetto la chiusura nazionale ad esclusione dell'attività di vendita, ovviamente, supporto vendita, presidi del Customer Care Security Operations Center e Network Operations, obbligando i lavoratori degli altri comparti aziendali, anche quelle delle zone non toccate dall'emergenza, a utilizzare le proprie ferie. Tutto questo mentre il garante per gli scioperi rivolgeva un fermo invito ai sindacati perché evitassero le estensioni collettive dal lavoro fino al 31 marzo, cioè praticamente una situazione schizoide. Quindi niente scioperi per più di un mese, mentre proprio i lavoratori subivano uno dei peggiori attacchi degli ultimi decenni. E vanno un po' avanti. E poi ci dicono: l'emergenza che toccava affrontare non era quella del virus, ma quella generata da ordinanze circolari attuative, come sta succedendo ora, che ormai facevano epidemia tra questi gorgheggi per loro conto, scollegate una dall'altra da regione a regione e recepite in misura diversa da comune a comune, con direttive applicative che si susseguivano a distanza di 24 ore per rammendare i buchi che le direttive precedenti avevano prodotto. E qui c'è una foto bellissima del sindaco di Bologna, Merola. Vabbè. A Bologna si toccavano picchi di ridicolo. Bologna non si ferma, aveva detto il sindaco Merola. Mentre chiudevano musei, cinema, teatri, saltavano festival e fiere. Chissà quanto ce la porteremo dietro questa cosa. Non si ferma, però va avanti. Si chiude e basta. Si chiude. Continua a camminare, ma tutto chiuso. Vai, continua a camminare, sbatti sul muro. Cammina occhi chiusi. Restavano aperte le biblioteche, come ci dicevano nella puntata scorsa, no? Proprio nelle biblioteche scrivevamo il diario virale. In quella più grande, la sala borsa, frequentata da migliaia di utenti al giorno. E proprio lì l'amministrazione dispensava i dipendenti comunali dai contatti col pubblico. Precauzione che però non valeva per i lavoratori ausiliari della Coop appaltatrice, i quali evidentemente potevano essere esposti al virus, purché mandassero avanti la baracca. Come gli educatori. Come gli educatori, come i portieri universitari, insomma, certo. Evidentemente, ragazzi, siete immuni, che vi devo dire. E quindi, insomma, con le scuole chiuse, gli insegnanti percepivano comunque lo stipendio, ma i servizi di pulizia e mensa erano in gran parte esternalizzati e quei lavoratori erano senza paga. Idem i lavoratori del privato sociale, spesso impiegati nel sostegno alla didattica. Per loro i sindacati avevano chiesto il fondo di integrazione salariale, la vecchia cassa integrazione. Un sussidio noto per i suoi cronici ritardi e comunque ridotto del 20-30% rispetto allo stipendio. In realtà i servizi svolti da quei lavoratori erano già pagati, già a bilancio, perché le cooperative che li fornivano avevano vinto bandi pubblici. Non ci sarebbe voluta chissà quale organizzazione per far arrivare quei soldi subito nelle tasche dei lavoratori, dove invece non c'era un baiocco che inzuccasse con quell'altro. Sì, la stessa situazione che c'è qui in Toscana. Esattamente, quindi si sta ovviamente espandendo, no? Macchia d'olio. Oggi, diciamo, da stamattina, sì, siamo nella stessa situazione. Tra l'altro nessuno era preparato a gestire questo tipo di emergenza, perché ci è cascata un po' così, hai visto il punto in bianco dall'alto, e quindi i vari settori non si erano organizzati in precedenza. Ma certo. Infatti tutti i luoghi di lavoro ad alta concentrazione di personale e di pubblico erano a rischio, e lo sono anche qui. Ogni azienda bloccata dall'ordinanza si ritrovava ad affrontare il problema senza aver ricevuto la minima indicazione su come comportarsi. Dato che riguarda anche Firenze, ora noi dovremmo parlare di linguistica, ma ci piace in realtà leggervi questo diario virale di Wuming, perché leggere Giap, ci piace tantissimo della lingua, per forza. Anche perché comunque sia collettivo letterario e soprattutto forse una delle poche fonti lucide di quanto questo coronavirus sta, come dire, viene la parola inglese widespreading, visto che sta diffondendo, no? Quali problematiche. Quali problematiche sta comportando a tutti noi, più o meno. Sì, se tanto bisogna parlare solo di questo, proviamo a suggerire fonti che lo fanno meglio. Esattamente. Banalmente. Sì. Nel nostro piccolo. Nel nostro piccolino. Tutte le fiere bolognesi erano state rimandate a maggio. Anche le forniture iniziavano a scarseggiare e molte aziende dovevano mettere in cassa integrazione i dipendenti perché impossibilitate a proseguire la produzione. I sindacati gestivano l'emergenza caso per caso, azienda per azienda, cercando di non far perdere giornate di stipendio e chiedendo l'attivazione degli ammortizzatori sociali straordinari alle amministrazioni e al governo, che invece baccagliavano zone rosse da isolare. L'insipienza di una classe dirigente selezionata in peggio da anni di retoriche populiste e tecnocratiche risultava in tutta la sua evidenza. Anche l'accavallarsi di competenze amministrative e governative faceva danni, dimostrando che gli ambiti non erano chiari a nessuno. Questa è bella. Un lavoratore del Modenese. A proposito, cosa è successo in questi giorni a Modena? Mia sorella mi ha mandato un video del suo vicino di casa. Wow. Mia sorella miracolo. Sta proprio lì. È successo il miracolo. È successo che un miracolo. Tutti noi aspettavamo. I rubinetti di Sette Cani e di Cadisola vicino a Castelvetro in provincia di Modena hanno iniziato a erogare Lambrusco. E io sono a Firenze. Un miracolo! E io vivo a Firenze. Non è possibile. È stata una sciocca trasferirti. Davvero. Capito? Davvero. Qui non succederà mai. Stupida. Qui c'è solo piombo e quante mercurio, cose mi sono persa. L'acqua probabilmente, niente di positivo. Sono coronavirus. Cioè fanno dei danni cerebrali, ma non è sufficiente per dire yeah. Il Chianti fa danni cerebrali. Ebbene sì. un lavoratore del Modenese malato di polmonite e positivo al coronavirus era stato invitato dai medici stessi a non recarsi all'ospedale per non rischiare di infettare altri pazienti. Crepa da solo, esatto. Bastardo. E poi assistere a casa. Ma il prefetto era intervenuto per imporre il ricovero nonostante il precedente. L'ospedale bomba di Codogno. Siamo sempre lì. Toto Codogno. Codogno. Insomma, vabbè, andiamo un po' avanti perché lo stesso Conte ora parlava espressamente di rischio recessione e chiedeva di abbassare i toni. Eh già, i toni. Nel giro di poche ore i media mainstream avevano cambiato linea. Gli stessi giornali che fino al giorno prima titolavano a tutta pagina che mezza Italia era in quarantena, il giorno dopo pubblicavano articoli rassicuranti che ridimensionavano l'emergenza. Dopo aver tifato paranoia per una settimana, se ne uscivano con analisi forbite sul paese in crisi di nervi. Che poveracci, che creduloni, con la che creduloni, povevacci. Ma dopo 3 litri di benzina sul fuoco, spegnere l'incendio non sarebbe stato facile. Soprattutto perché ora gli amministratori, che da quei media si erano lasciati influenzare, reagendo nei modi più irrazionali possibili, si trovavano in un paradosso a spirale, una trappola senza uscita. Non sapevano come rimangiarsi il decisionismo e il celodurismo di pochi giorni prima. Celodurismo rimanda alla nostra puntata sempre, sulla Lega. Ci siamo sempre. Quando l'abbiamo fatta? L'anno scorso, ottobre? Forse un annetto già, forse. No, meno. Quando ha vinto Salvini. Quando ha vinto il merda. Sì. Radio Wombat, l'unica radio in cui si possono dire le parolacce. Ah, che bello. Perché non abbiamo merda. Bip. Non l'abbiamo avuto per un periodo, poi abbiamo deciso di non usarlo. Revocare le direttive inutili mentre il virus era ancora in giro non equivaleva forse ad ammettere di aver sbagliato tutto o di aver esagerato? Forse un tantino. Vediamo un po'. Qui è. È lunghissima ancora, sono le 20:08. Ma io è penso... lunghissima ancora, vi leggeremo ancora qualcosa su Bonaccini. Sì, è il, che tuo, un mio, il tuo completino. Posso dire una cosa cattivissima? Ce la dica. Un mio conoscente mi diceva che Bonaccini, secondo lui, governatore dell'Emilia Romagna, è vestito come un puttaniere romagnolo. E quando mi ha detto questa cosa io l'ho proprio visto che passeggia sul lungomare di Cervia. È proprio lui. Sì, ormai mi hai messo questa idea in testa, quindi ogni volta che vedo, talvolta quando mi capita di vedere una sua immagine, rimango... shock. Che ha sempre questi occhiali, questo pezzetto curatissimo, la catenina d'oro al collo. Puttaniere romagnolo. No. Chissà se ha anche il crocifisso. No, non penso. Vabbè, secondo me io c'è ti il faccio tau. Ascoltare un po' di musica simpatica. Posso dire un'altra cosa? No, non lo dico. Sì, era veramente terribile. Dilla me, poi vedo se è il caso di rimandarla in onda. Un indovinello per i nostri ascoltatori. Ha lo stesso ciondolo che aveva Gianluca Grignani al collo. Ok. Gianluca Grignani. Quando gli hanno chiesto, è quello Gianluca che cos'è? E lui ha risposto, vai con la musica. Thank you. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be bound without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse. E ce la arriviamo ancora. Tra una chiacchiera e l'altra ci siamo prese questi minuti di sosta, di pausa. Una chiacchiera. Ti abbiamo riportato negli anni '80, ma nel frattempo ero nata, sì. Ma quando c'era questa pazza io mi sa non ero nata. Forse sì, forse no. Che mi sono dell'85. 80, ma forse questo poco dopo, chissà. Te insomma, se c'eri, e rompevo il cazzo. E questa foto qui, questa foto qui. Una insane, no, ragazzi, davvero. Sembra finto. Non so se avete avuto modo, sì, sicuramente. I miei conterranei sicuramente hanno avuto modo di vedere la faccia. Ma secondo te quello del fondotinta? Non lo so, ma è uniforme. Questo effetto sfera. È uniforme. Non è possibile che sia naturale. È uniforme. Ma dicono che questa sia la risata di Vincent Price sulla faccia di Bonazzini, di Bonaccini, eccoci. Che aveva persino dichiarato la chiusura delle scuole, richiesta da oltre il 90% dei genitori, capito? E beh, io, mia sorella che ha due bambine piccole, e sono comunque convintissima che mia sorella, insomma, disiderasse qualsiasi cosa tranne che le due pesti rimanessero a casa da scuola. E comunque Suming, Bonaccini lo definiscono il Golden Ragaz. Bellissimo. Il Golden Ragaz. Azzeccatissimo. E il PD emiliano davano prova di un frastornato dilettantismo e si stavano alienando proprio i lavoratori del comparto cultura e spettacoli, gente che si era turata il naso in massa per sconfiggere la Lega, ragazzi. Capito. Cioè, siamo sempre lì. Il quadro è abbastanza, come dire, sta iniziando a compiersi tutta la situazione, perché qualsiasi partito, qualsiasi pendenza, diciamo, sta iniziando a dimostrarsi per quella che è, con le sue colpe e con i suoi, la sua anche incapacità di gestire una situazione. Bacilla. Bonaccini sembra quello che pensa di potersi pisciare a letto e dire: e allora io sudé e quindi ho sudato. A parte stringere la ganassa, comunque non sapevano che altro fare. Avevano un piede a mollo e l'altro nell'acqua. Non potevano neanche dare la colpa al Ministero della Sanità, perché era il ministero di un governo amico, e soprattutto perché i più assurdi spropositi presenti nelle ordinanze erano farina del sacco locale, come sta succedendo un po' ovunque. E questo era successo ovunque. Ad aver dato il peggio erano state le regioni. La regionalizzazione della sanità si era dimostrata d'intralcio nella gestione della crisi, alimentando un caos più volte criticato dai vertici dell'Istituto Superiore di Sanità e addirittura spingendo Conte a minacciare la Lombardia di togliere le prerogative. Nemmeno sul vero numero di contagiati c'era consenso. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità, le regioni... Che si legge ISIS. Le regioni comunicavano numeri non controllati. Com'è possibile? E poi Giap continua, è lunghissimo questo articolo. Ci sarà anche Marx lui, come il dietrologo. La dietrologia marxista. E parliamo di big data, l'Internet of Things, le case smart. Stavo leggendo che esiste. Persone in file, anziché in fila. Persone in file. D'altronde, scusatemi, virus. Si dice virus. Gigino ha fatto la sua. Anche a questo giro l'ha detto, invece che dire virus, ha detto virus. E ovviamente il web ha iniziato a proliferare una serie di bellissimi meme, tipo di lui con le manine. Se le va proprio a cercare. Sì, lo fa. Comunque, illustrazione fuori testo, sembrerebbe Lovecraft, ma non è Lovecraft. E tutto questo parallelismo, insomma, per dirvi, intanto andatevi a leggere www.womingfoundation.org, mi sembra. Maybe, sì. E cercate già, leggetevi queste testimonianze meravigliose che se prima erano soltanto bolognesi, ora iniziano invece ad essere veramente diffuse su larga scala anche in Toscana. Ci sentiamo un altro pezzo, cosa dici? Io rimetterei quello là. Certo, quello là. Te l'ho preparato. Grazie. È tutto pronto. E poi si Nene passa... a distrugge, ma giusta. Giusta anche. Sentite che bello, eh? Per la Firenze che chiude le scuole. Questa volta Firenze che ha paura dei virus. Per la Firenze che ha paura. Come scaldare l'atmosfera, come renderla perfetta per far attecchire il virus. Virus, virus, yeah. Virus, virus, virus, virus, virus, virus. Molto scontato questo pezzo questi giorni. Ma noi lo mettiamo lo stesso. Anzi, l'abbiamo ascoltato anche ieri sera. Perché la brusca non ha paura. E forse nemmeno DJ Franchino. Io però di Franchino sì. Ho paura. La magia. Aiuto. Riceviamo in diretto streaming video di gente che balla. La brusca, una trasmissione che fa anche ballare. Grande, guarda come è scatenato, fantastico. Bravo. Tra l'altro è un esemplare di coronato che sta ballando, quello che ci ha appena mandato il video, un esemplare di persona coronata che è guarita in 3 giorni. Incoronatissima. E sta ballando. Per cui fate voi. Per quanto possiamo andare avanti? Per sempre. Vorrei che questo momento non finisse mai. Vi ricordiamo che questo esemplare meraviglioso di trasmissione radiofonica sarà disponibile a brevissimo anche sul podcast di Radio Wombat. E che per cui tutto non autoprodotto, perché Radio Wombat non ha pubblicità. La radio e che si non piace da sola. No, le pubblicità. Abbiamo degli spottini bellissimi che potete ascoltare durante certo. le nostre trasmissioni della radio. E tra l'altro vi invitiamo ad andare appunto su wombat.noblogs.org e alla sezione palinsesto potete vedere quale scempio di cervelli e di parole si fa, perché abbiamo una serie di trasmissioni bellissime. C'è la trasmissione sulla Palestina, la nostra, e ci sarà in Punta di Pedali, l'Urlo dei Balcani, e ce n'è per tutti i gusti. Ce n'è per tutti i gusti, classica, Slick Chic, 8 Hz per gli amanti dell'elettronica, dell'industrial, insomma abbiamo informazione. La musica che viene dall'Africa, abbiamo Uru, abbiamo Tonight Live, abbiamo una trasmissione fatta interamente con vinili del Basement Records, per cui insomma noi ci meriteremo le frequenze di RTL. C'è tutto, sì, le vogliamo, ma non ce le danno. Ma chi le abbiamo vuole? Provato, non ce le danno, e allora ci siamo preso quello che ci perché siamo pericolosi come il coronavirus. La parola del giorno, vai, fammi un jingle. La parola del giorno, la parola del giorno è prossemica. Ho fatto anche l'eco. Allora, chiacchieravo oggi su Facebook e mi sono imbattuta nel link di Matteo Meschiari. Per chi non lo conoscesse, Matteo Meschiari è un docente di antropologia dell'Università di Palermo, ma è modenese, di proprio quella ridente città dove allora il Lambrusco sgorga. Ragazzi, è una puntata così. Emiliana. E mi fa venire in mente uno spunto, che è quello della prossemica del coronavirus. Cioè, nel senso, noi siamo circondati da una serie di ordinanze, da una serie di diktat veri e propri, apparentemente, dico apparentemente semplicemente perché non sono una scienziata, ma stupidi, del metro di distanza, della non alitarsi in faccia, del non limonare. E quindi mi è venuta in mente questa parola, che è prossemica. E che dirvi di più? È la disciplina semiologica che studia il comportamento, studia il gesticolare, i gesti, lo spazio e le distanze che si instaurano all'interno di una comunicazione, che può essere verbale e non verbale. Generalmente è generalmente è, diciamo, rappresentata all'interno. Pensavi fossi io, sì. Sciocchina. All'interno di una serie di insiemi. Oggi la prossemica è abbastanza sopravvalutata, perché viene utilizzata addirittura come viene studiata per la seduzione. Cioè, ragazzi, veramente, ripigliatevi. E questa cosa mi è venuta in mente perché Matteo Meschiari su Facebook scriveva: come mai non si è ancora parlato di prossemica del coronavirus? In realtà forse potrebbe essere uno spunto interessante per la prossima trasmissione. E che mi ha fatto venire in mente in realtà le lezioni americane di Italo Calvino. È un bounce, proprio un saltone questo. Però perché? Perché Italo Calvino nelle sue lezioni americane predicava la leggerezza, predicava la cura delle cose, predicava il non perdere come dire, la vicinanza con gli altri come elemento di comunicazione principale. Sul finale della cavalcata delle Valchirie, e quindi insomma la parola del giorno è prossemica, e i nostri consigli letterari sono Matteo Meschiari con La grande estinzione, Le lezioni americane di Italo Calvino, Giap, Booming, Alfonso Signorini. Oh, Zero Calcare, è uscita una nuova animazione, andatela a vedere, meravigliosa, eccezionale, sorprendente, davvero bella. Non l'ho vista. Parla proprio di salute. Mentale o fisica o entrambe? Fisica. Beh, chiaramente mentale in primis. Io mi ritrovo tantissimo nella vignetta del trentenne di Zero Calcare. Wow. Che si addormenta sul divano all'una, si risveglia alle tre e poi non ha più sonno. Stupendo. La vecchiaia ancora. È così. Bene, ci siamo. Vi lasciamo con un minuto di questo pezzo. Sì. E vi salutiamo. Ci risentiamo giovedì prossimo. Io avrei una chiusura diversa. Ci sarebbe quello. Sì. Va bene, dai, vi lascerò così con questi 24 secondi. Ci risentiamo quindi giovedì prossimo. Giovedì. Per chi ci ascolta in podcast, buon ascolto. E comunque voi siate, a risentirci. State attenti, un metro di distanza. Un metro di distanza. Davanti, ma anche dietro. A risentirci. Dove l'andava a prendere questa espressione? Dove l'andava a prendere? Io non sono alle prime armi. Alle prime armi, ma come parla? Anche se il mio ambiente è molto cheap. Il suo ambiente è molto? È molto cheap. Come parla? Senta, ma lei è fuori di testa! E tu? Oh, come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Occhio al pigia. Come parla?